Come sempre, Tony, segnale, boh, dove ti dica, date indicazioni, è fortissimo. Aspetta, sto usando quella questione che mi ha dato Gianni, il padre di Claudio, e l'ho sistemato. Ecco, adesso sono diminuito il segnale, dai, comunque penso sempre bene. Sempre fortissimo, sei in zona rossa qua, dare numeri è, come sento certe volte, mi sembra superfluo, boh, sei tipo 920, una cosa del genere. Ok, Claudio, però ti arriva così, 1, 2, 3, è così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avanti. Sono Marco Scorpio, Nuovo del Monte, dal 1972, qua, sempre qui, al monte, quando tu vai al monte, alla fine del monte, alzi la testa, già anche dall'aereo, quando stai atterrando, le vedi le antenne, sempre quelle, tutte quelle antenne che vedi, tralicci, parabole, di tutto e di più, sono, al momento risulta uno dei più denunciati d'Italia per quanto concerne le antenne. Sulla destra. Esatto, quella prima villettina lì. Ho visto di tutto e di più, sono venuti tutti, è venuto l'ARPA, è venuto i baraccelli, la polizia diverse volte, i carabinieri, tutti quanti, però qua io sono in regola, ho tutti i documenti, anche ogni volta vanno via un po' con le orecchie basse, perché i vicini alle volte quando hanno problemi si lamentano, magari pensando che sia io il problema, invece poi si scopre che l'ultima volta avevamo cambiato il capo d'antenna era 30 anni prima e le antenne ormai sono pure cadute, non ce le hanno più sul tetto, e così si danno le colpe a chi va a modulare. Vabbè, sempre qua, prima nei decenni passati qua comunque se venivi qua o a caccia o per motivi vari, perché prima era tutto strada bianca, avevo sempre avuto la mantova 1 altissima, la mantova 1, la direttiva 3 elementi, 4 elementi e poi sempre antenne importanti. Conosco quelle antenne da un po' di tempo, perché io ci frequentavo quella zona. Sì, io entravo nel 74 come Tonino San Nicola prima, poi anni che furono Kawasaki e poi da lì, tutto qua. Ok, comunque, sei un bel orecchio, e mi hai riconosciuto al volo. Avanti Claudio. E Tonino non se lo ricorda, ma magari non ha associato il nominativo, perché a parte che poi entravo sempre come Marco e basta. Ma negli anni 80, Tony, 80, sì, più o meno dovrebbe essere gli anni 80, perché eravamo fuori legge allora con gli apparati radioamatoriali, non avevamo autorizzazione. Io e Walter eravamo sempre in guerra provando amplificatori, roba pesante, facendo prove di segnali, e molte volte abbiamo fatto prove di segnali con te di notte, dandoci segnali eccetera. Addirittura mi ricordo che una volta, sono quelle cose che ti rimangono impresse così come capita, no? Mi ricordo che tu hai detto: non è possibile che siete a Sassari, voi siete qua, non è possibile, perché mi pare che ti arrivavo 9 più 40, ma stavamo sempre usando roba pesante, perché con Walter abbiamo Walter e poi noi. Devo dire che allora c'era anche Vittorio, che con il quale facevamo le molto spesso le battaglie, con Villa Cidro si facevano, allora c'era propagazione, arrivavano sempre quegli amici di Villa Cidro e facevamo prove di notte a vedere chi arrivava più forte lì a Porto Maggiore e a seguire. Allora, nell'80 poi abbiamo il Galaxy 1000 e abbiamo fatto una prova con Sparviero, con Porto Torres, e tiro 1000 io, 1000 lui, uscivano scintille, dato vero che l'amico di Papa Tango non lo soltava né a me né a lui, e portavamo quei tempi. Che prima si poteva fare, adesso aspetterò il condizionatore che ecco, adesso lo aspetto che è un casino. Altri tempi, sì, c'era più gente, c'era più bello, giochi, quello, quell'altro, con ogni canale spostavi c'era sempre quelle 4-5 persone. Mi ricordo che io su 15 facevamo Porto Mello, Corpore Chopin. Allora c'era Luisito, Cerotto, Fiuccina, qui c'era Trascovia. E vi dicevamo, ieri siamo arrivati sino a tardi con Gianni a parlare, e Ragno, e Coso, a parte ovviamente Panzer, ma i nomi di Limonero, Carlos Primero, Flymen, Maurizio, come dicevo prima, dal Grattacielo, Coso, che poi ero in attacchino con la figlia, Capitano, che aveva la Cubica in via Napoli, insomma c'era Rosetta, alla quale poi avevo venduto una delle mie radio che avevo comprato da Mario Ottari, e Mario poi l'aveva venduta a Rosetta, il Excalibur, il Colt Excalibur, no, il Petrus, la Fayette Petrus era quello lì, la Fayette Petrus che era cromato tipo questo che sto usando adesso, tipo il Telsat. Allora entrava qualche volta anche Mario M2, insomma da poco avevo visto qua, mi è smistato QSL e roba del genere, avevo trovato addirittura degli appunti dei collegamenti della banda cittadina, e poi c'erano quelli degli amici di Alghero, qualcuno poi diventato anche radioamatore, e via a seguire. E vabbè, comunque insomma, bei ricordi e bei tempi. Qua poi allora avevo piazzato anche la direttiva Tre Elementi che avevo prima nell'appartamento in via Carso, io abitavo a Sassari, vicino a dove c'era il laboratorio Beta Verde, stavamo parlando con Gianni anche ieri, non so se tu ci sei mai stato, Tony. Negativo. Il nome che hai citato poco fa mi dà per 1000, Mario M2 sì, abitava per 1000, Flyman aveva il negozio di Istituto di Bellezza, Piazza Rosario, parlava Radio Giovani, Limonero abitava Piazza Sacro Cuore, confermi. Confermo, poi Flyman è diventato anche radioamatore, ma è entrato poche volte a fare attività con me e con altri, però so che è sempre, ogni tanto so che è operativo. E poi c'era Scandalo al Sole, che ho conosciuto personalmente, abitava giù al Corso, a fianco a buon'anima di mio zio, a Vagnina, il barbiere, non so se c'è presente, giù alla fine del Corso c'era di Corso Trinità, c'era il barbiere Antonio Vagnina, e lui abitava un pochino prima, e aveva, cioè quando ho visto quelle apparecchiature, abituato a vedere i Catalina e roba, o HB23 o roba così, piccole radio, ho visto il trio della Kenwood Nero, e questo che cos'è? Una cosa, mi sembrava di vedere un mostro di radio, il trio Kenwood Nero, il trio Nero Kenwood, ma qualcosa di spettacolare, che lui aveva una modulazione, usciva benissimo. Scandalo al Sole, non so se, vediamo un po' se Gianni gli è capitato di sentirlo. La portazione a Scandalo, non è che ne portato a Trenepoco, carissimo Gianni, anche a me ha fatto un po' di danno il lavoro che avevo fatto sulla veranda, me l'ha tutto incasinato. Vabbè, aspetta che abbasso un po', perché sennò mi rimbomba che l'orecchio si cuffia. Sì, ma allora, scaldo al sole, sono vagarrato. Sopra lui, cioè sopra lui c'era il mare, allora, e se non ricordo male, lui era anche una guardia giurata. E non stai parlando di ieri, stai parlando di molti anni fa. Vediamo se mia memoria mi inganna, era una guardia giurata. No, no, è giusto, hai detto bene. Hai detto proprio bene, era proprio lì, abitava al primo piano di quella palazzina che c'è a fianco o comunque un po' prima, un po' dopo, non mi ricordo con precisione, ma lui mi aveva invitato, vieni, e io gli ho detto guarda, tanto io andavo da zio, da zio Antonio, dal barbiere, a tagliare i capelli eccetera, e niente, sono andato a vedere, cavolo, questa radio che era qualcosa di bestiale, sì, ma insomma, ti dico, guarda, allora io avrò avuto 13 anni, ne ho 61, fai tu i calcoli, ieri o avanti, e poi insomma ce n'erano tanti, infatti stavo dicendo, c'era Tore Casara, che allora era, si chiama, mi ricordo, il fratello era Ragno, che abitava sopra l'Ariston, aveva la Super Range giusto su in cima, e Ettore, adesso non mi ricordo, era nativo Avese, nominativo di questi dei cacciatori, perché lui era appassionato di caccia, e aveva nella macchina, aveva, sai, ovviamente le radio bisognava tenere nascoste, era tutto fuori legge eccetera, mi ricordo, mi hanno fatto vedere, aveva nascosto il microfono nel clacson, nel volante, e con un capo eccetera, con un interruttore e la radio nascosta, lo stesso, queste cose così che di allora insomma era proibito, ti ricorderai, insomma la polizia, guai se ti trovavano, c'era arresto. Ecco, se mi ricordo bene. Poi manca lei a quella della notte che siamo alla fine di Via Caprera, Luisito era della Sicilia, sì, lei ricorda tanti nominativi che CD parlava spesso con Protose, i pescherici, la Baronautica, Canale 1 e altri cosiere. Proprio bello, mi ricordo particolare che avevo chiamato, non mi ricordo il nominativo adesso, del pescherico su Canale 1. Ha detto mi hai sardine, ma ha detto vieni domani in rapporto, se mi porti una cassa di vino ti do una cassa di sardine, sto venendo, adesso il mattino ero già là con la cassa di birra, ma dopo queste sardine chiamo mio zio, che poi modulava anche lui, Barbariccia, non so se lo ricordi, ha detto Giovanni, che dici, ce la facciamo sardine arrosto? Facendo, aiuto, ogni maniata, quindi sì che è un tempo, avanti Gianni o Claudio, insomma, uno dei due, beh. Luci della notte, così è. Luce del mattino, la 50 di Intrepido, poi c'era Stella Albina, poi chi c'era? E Camomilla, e Vinea Elettrica. Ecco, hai ragione, io lucido notte, lucido il mattino, che aveva la voce, io ricordo dei QSO, era fantastica, la moglie di Intrepido, bravissimo. E Rosetta che era dalle parti di via Porcellana, da quelle parti là. No, stai sbagliando. Rosetta era via Parigi, la moglie di Monforte, direttore del GAS, dottor Marino. Mentre via Porcellana si è confondendo con Renata. Ah, bravissimo, hai ragione, sì, Renata, giusto, bravissimo. Ti ho preparato, Tony, bubu. Io ho 66 anni, te l'ho già fatti. Ma un pizzino, se tu sei un pizzino, allora io sono messo meglio. No, la memoria già mi funziona ancora, dai. E mi ha appassionato molto, anch'io ho un apparato che degli anni 70, diciamo, no, fine 70, inizio 80, io ho un Brax Saturneco. Bello, Saturneco, bella. La radio sicuramente è fra le più vendute, fra le più amate come punto di riferimento. Qua hai capito che radio sto usando, Tony? Il Telsat, quello che praticamente ha due strumenti, c'ha anche l'altro parlante sul fronte, però è tutto cromato, con le manopole cromate e i pulsanti orizzontali neri. Ma questa radio mi piaceva e mi piace ancora tantissimo, a parte che questa è proprio nuova, bella, col suo microfono da palmo originale, va bene, così sono non attaccato e così invece sono attaccato con un amplificatorino, un booster, un 747, che sta praticamente, sono a 40 watt, dai, in tutto sono a 40 watt. E tu invece, Tony, che cosa stai usando? Ma un semplice e bruttino BV131 della ZG, era 4 mesi montato a parte, e il carissimo Gianni, io ho pensato solo a lui perché ho telefonato in varie parti, da Fusaro, da Vittorio Giove, nulla, e un condensatore. L'ho detto a Gianni, domani Gianni mi ha fatto avere il condensatore, me l'ho piazzato, ecco qua, e sto modulando con il ZG. Perfetto Tony, non altera minimamente la modulazione, guarda, sta andando non bene di più, e anche quello BV131, le prime serie forse è proprio degli anni 70 mi pare, le prime serie, poi la ZG aveva cambiato un po' i colori, le forme eccetera, ma è sempre è vintage proprio, come questa roba che sto usando io. Gatta, è quello verde scuro, verde militare, verde come vuoi chiamarlo. Ma la franchigia gialla interno e tre tazzini rossi. AM6000, standby, off, tutto qua. Bene, grazie sempre, ripeto, non mi stancherei mai di dire grazie a Gianni per il favore grande che mi ha fatto. Avanti Gianni. Assolutamente sì, bravissimi, avete anche molta memoria. Adesso stavo pensando, c'era una ragazza che adesso avrà 60 anni minimo, o giù di lì, che abitava vicino a casa di Walter, di Diabolik, poco più giù della salitina. Walter abitava con la famiglia, dove adesso ci sono ancora, dove ci sono le antenne, che fra l'altro ogni tanto siamo lì a dargli una mano a fare manutenzione, e abitava lì dietro, sempre lì punti, e non mi ricordo come si chiama. Tony, tu che c'hai memoria? Io c'ho memoria, però non mi ricordo di questa tipa, assolutamente, mi dispiace ma non lo ricordo. Sto cercando di aprire tutti i cassetti a memoria. No, non me ne ricordo. Io mi ricordo Alba, che era la sorella di Coso, di La Buonanima, di Nino e San Giovanni. Poi mi ricordo di Toni II, che non so che fine ha fatto, che si era sposato con Alba, che mi ricordo altro. Marco, non so se ti ricordi la famosa Itria, la moglie di Brobenedina, che aveva una faccia da gatto rossa. Ehi, già me l'hai ricordato, cazzo, cosa sei andato a pescare, Itria, Io guarda, adesso mi sono ricordato invece di un altro appassionato così di quel periodo, che era Stefano Serra, il fotografo, e la, che aveva conosciuto la, quella fidanzata che poi è diventata la moglie, che poveretta è venuta a mancare 6-7 anni fa, e i nominativi non me li ricordo, e aveva il laboratorio in piazza Mazzotti in fondo a, sulla sinistra, e poi un altro mi sono ricordato era Radio Michel che abitava attraverso il viale Trento, è appassionato, adesso sta sempre in giro con le Mini Cooper, vecchi modelli, appassionato di macchine d'epoca, con una CHF, non so se Radio Michel, anche lui mi ricordo che sono stato a casa sua, mi ha fatto vedere, aveva fatto arrivare una radio da fuori, gliela ha portata qualcuno, che era modificata con le bande laterali, col UFO, che allora era già una cosa spaziale. Aspetta, ti lucido solamente. Allora, tornando a Itria, abitava in zona Capocini Alta, via Biasi numero 7A, dopo di spiegare perché sono tutto. Di Stefano, il fotografo, vento giallo, la madre entrava come Electra. Lui era fidanzato ufficialmente con Margherita 10 anni, poi purtroppo si sono lasciati, e si è messo con Patrizia, la figlia di Rosetta. Ok? Tutta la storia, oh. Patrizia, la figlia di Rosetta, ecco, vedi, vento giallo, accidenti, cavolo, che memoria che hai, Radio Michel, non te lo ricordi lui come si chiama? Non Daniele, come cavolo si chiama? Lo vedo ogni tanto in giro, sempre con queste Mini Cooper vecchie, ne avrà 3 o 4 di queste vecchie macchine d'epoca. Gianni, tu ce l'hai presente chi è? Però un momento mi avete detto, povera Tomassetta, spaziale, cosa sia a te, ma lo conosco perché avevo fatto delle fotografie per i malfetti a mio figlio, e poi quella che volevo con l'altra donna era Ginevra, era poi c'era quella che ho detto l'altra sera a Corso, a Torino, Luisa, e la macchina figlia era Luisa, poi c'era Costantino, ti ricordi di Costantino, di padre Brown, Marco? Angelo Michel, scandalo al sole, Nino. Tu sei andato da sì, Giulio. Vedi che rispolverate questi nominativi, sveglia anche i dormienti. E beh, Giulio, cos'è? Ti abbiamo rigiovanito. Ciao a tutti. Vabbè, ma non posso parlare, qui c'è la televisione, c'è il disturbo. Sì, adesso Angelo abita in via Baldella, in fondo, in campagna. Prima abitavo lì, sì, di Villa Trento, eccetera, da quelle parti. Vabbè, dai, continuate pure, vi ascolto con piacere. Ciao a tutti. Ciao Gio, mi hai sentito, buon cuore X, fa piacere. Avanti, Gianni. Ciao Giulio, buonasera, benvenuto. Ok, io sapevo un quaderno che mi fa portata a questo nominativo. Quello che tranquilla, dopo che mia sorella ha appena detto, domani c'è andato per via nel confronto sociale, lo vanno a venire. Quindi fai non soffitta, perché se ti va un po' sicuro te lo prende, capite? Poi vediamo i nominativi. Però la più preponderata era Coso, scusa Marco, andava al sole, poi dal corso, da Corso Vittorio Emanuele, si era trasferito lì in via Infermeria San Pietro, angolo praticamente allo sventramento, dai, della Sassa di Vecchio, da quelle parti lì. Ma si sono perse le tracce, boh, io dopo quel periodo lì, e sto parlando degli anni 70 giù, che ti ricorderai, io ero ragazzino, e lui entrava la sera a chiacchierare, a fare eccetera, anche tu, tanti di questi nominativi che abbiamo detto, però poi era scomparso, ma si trova ancora, che tu sappia. No, è deceduto parecchi anni, faceva il vigile notturno, dopo lì si era trasferito, dopo l'incidente del figlio, eccetera, eccetera, no, sappiamo tutta la storia, come era andata, abitava lì alle Monache Cappuccine, dai, come lo vogliamo chiamare, angolo via Infermeria San Pietro, ma è deceduto da tanti anni. Marco, ma allora ricordavo bene che era una buona giornata. No, ricordavi bene, no, me lo ricordavo questo che era guardia giurata, me lo ricordo, mi ricordo. E adesso c'era Ettore Rai, vedi? Non l'avete cercato, adesso lui da su ma avrebbe subito detto bravo Marco, Ettore Rai dove lo mettiamo? Col giubbotto in pelle nera. Ettore alla verde, carissimo, buonanima, amico grande. Il fratello Aldo Perseo ed è rientrato in frequenza Bruno Uragano, fratello, cioè il cognato volevo dire, non fratello, i cognati, tutti e due, sia Aldo che Bruno, cognati di Torelai. Mario Mauro chi le lasciate? No, Mario Mauro non si può lasciare, assieme a Limonero no, sono assolutamente dimenticabili. Ma bella questa storia, ma è quando sono, non sapevo, non mi è capitato di sentirlo a Bruno, e Bruno in quel periodo, Bruno è più o meno mio coetaneo, ricordo che ci siamo incontrati anche di persona tante volte, ha ripreso a entrare in radio, ma è da poco, non ho sentito io giù ancora. Sì, da pochissimo tempo, ma modula dalla macchina, alla volte si prende come luogo di postazione lì vicino a casa tua, proprio per uscire bene, perché essendo in altura lì, dalla macchina, sai, allora preferisci andare in quella zona, perché già lì è modula tante volte, però c'è che questi giorni magari riuscirai a sentirlo, Io sto usando adesso un baracchino ormai con un alimentatore che non è abbastanza potente, dunque devo smettere, dai, continuate pure, vi ascolto con piacere. Ok, buon Corex e Giulio, ci ha fatto piacere. Gianni, mi ascolti così sono 5 watt. Come sta scaldando già ti stai leggermente allontanando dalla frequenza, ma non è grave, non c'è problema, d'altronde queste radio c'hanno gli anni sulle spalle. Bene Giulio, allora grazie dell'intervento e ci sentiamo nei prossimi giorni. La radio funziona benissimo, quella che stavi usando, qualunque modello fosse, non lo so, ma andava veramente bene, ottima modulazione e la tua voce, perfetta. Dai, bene, io mi allontano, vi ringrazio di questo simpatico questo, speriamo di poterne fare altri in questi prossimi giorni, e niente, grazie a tutti e buonanotte, mi sposto, vado a fare, c'è uno schermo, devo andare a fare un collegamento. Ciao ciao, ciao Tonino, ciao Giulio, ciao ciao Gianni, ciao ciao anche a tuo figlio, è piacere di averlo collegato, a Claudio, e ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao ciao, Marco Scorpio, no, in QRT. Dunque Marco, la ciliegina non l'abbiamo messa. Vetrina quella rossa e rosa verde, la portante d'oro. Gabriella di Porto Torres, Mariolino di Alghero, Pomolano di Alghero, Carciofo di Porto Torres, e ce ne sono un'infinità di nomi. Ciao Marco, ci sentiamo, buonanotte, dai, buon collegamento. Ciao Tonino e ciao Gianni, alle prossime. Io ho finito con questo passaggio, non posso continuare, dai, riprendi pure Marco. Ehi, no, chiudo io qua, è Chris là, che anche lì c'erano sempre dei bei segnali, dei bei collegamenti. A te Gianni per la chiusura, ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao ciao Marco, buonanotte e benvenuto e alle prossime. Ciao anche a te Giulio, benvenuto. Io ogni tanto mi affaccio, non è che sono più assiduo, però sono entrato così proprio in corsa perché ero tutto visionato e capivo il bicicletto qui, poi appunto l'altro, anche l'altro bicicletto, ma per passare il tempo perché mi sono annoiato in casa. Ci sentiamo alla prossima, fa piacere sempre ricordare i vecchi tempi. Sì, comunque, beh già, che vuol dire? Io mi sono mandato un bel film di fantascienza, poi niente, ho acceso il baracchino e chi c'è? Spazzolando, mi sono soffermato, c'era Gianni, c'è Claudio e Marco, era solito anch'io, tutto qua. Niente, non lo so, no. Vabbè, sono in ferie, quindi rientro il 4 e poi il 13 devo partire per farmi le linee del disco, meno male. Questo è il letto di Tonio, diciamo, poco fa era attaccato insomma il 6340, poi siccome non aveva entrare Marco per fare il sentire il corso, però tutto il pignolato da là alla Z, avevo il condensatore, solo che dice qualche resistenza, qualche piano tenere che bisogna piano piano individuarlo, poi stava proprio di sì, poi si a mettere, perché sono annoiato in casa, non vedo l'ora di rientrare a scuola, capito, e poi anche sto pensando così, di non abbuffarmi, mangiando, poi mangiare, però se no non puoi uscire, non ti puoi fare una passeggiata, siamo penalizzati in tante cose, io ho rispettato tutto quello che te lo governo, però come si chiama, almeno una passeggiata a piedi si può fare, oggi non c'è la maglia, mi spesa, non è la giornata di uscire, però appena è capito che volano la stessa, iniziamo a camminare a piedi, se no guai, il fisico ne riveste. Se è arrivato a bomba, se è arrivato con anche io, se lo puoi, se lo presimo da qualche parte, che, però bisogna dare sempre qualche colpo in massa, non si sa mai, però manco un attacco quello, hai capito? Io non sono fuori dalla radio, per modo di dire, perché lo lasciate a lui, però di tanto faccio qualcosa, poi mi sento provare, che Marco anche non è collezionista, e mi fa piacere, hai capito? Gatta, ho lavorato sino al giorno 23 e poi dal 24 in ferie, però domani 29 e il 31 devo lavorare un'oretta perché porto la posta in provincia a Palazzo e nel poi negli uffici di Baldinca e c'ho tutta la giornata pagata, se no sprecherò un'oretta, non di più, non con la macchina mia ovviamente. Mi guarda, adesso attacco con il ZG. Ecco, adesso si è attaccato già, ma com'è? Va bene, hai detto che lo speaker non è che ti funziona tanto bene. Comunque, la radio non so se me la mangia. Guarda un po'. Ragazzi, non te la mangia la radio, fa abbastanza bene, no? Qui sono in trasmissione, va. Quindi, come ho fatto la radio, posso telefonare o già? Come tu lì? Ho detto, quando posso telefonarti? Quando vuoi, anche adesso. Su WhatsApp. Sì, allora ti chiamo WhatsApp, perché a Baracchino non è che mi piace parlare più di tanto. Si chiama WhatsApp, lì. E qui, adesso ti chiamo chi?